Franco, Franco! Cosa stai facendo? Sto anche comportatile, mi senti? Sono... vabbè che sono stato a parte della bugiuna. No, mi sto bloccando una scarpiera che sennò si rovescia. Come non gli hanno fatto neanche fondo questa scarpiera. Ma da rete più, Punta se la muro da sopra, al centro, e non va più da nessuna parte. Perché la Coppa Pedretti si è dimenticata di mettere il fondo dietro. L'hanno in buccio una traversa e praticamente ha dato per un muro, andando a aprire a pulire i posti. Ah, va, mi lascio il blocco, dai. Te ci avessi, mi sente Franco, dai. Infatti, non te l'hanno messa addirittura, perché quelli risparmiano dappertutto. Vabbè che intrucciolare, però capita, hanno punito manco un pannello ad Areto. Capo, tu pensa che io ne avevo comprato una e mia moglie mi ha detto, dice, pigliamo chi ci ha detto della Ianna, piglia chissà, la pigliata, e non mi ci ha detto di volte di rente. Quella ho io, a 4 scomparti, anzi a 5, che ci sta dietro la porta. Siccome sono basculanti i cosi, però no, le scarpe già ci stanno, anche i stivaletti io c'ho dentro, no, già ci stanno, sì, e sarà 15 centimetri di profondità, no, di più. Bah, che sarà giubilato, non si è annuncio, infatti la testa va un po' come se la lampata. Guarda, ti sto mandando gava. Guarda, te l'ho mandata mi fra. Sì, sembra uguale proprio a quella, mi sembra. Sembra tutte uguali queste cose. No, già sono comode. Mi risalzo di volte, Puglia. Quanta pagina mi risalzo. Va bene, dai, adesso li metto altri due viti, ci sentiamo dopo. Ho sentito qualcuno, avanti, chi è? Non sento nessuno io. Va bene, dai, a dopo. Ciao. Ciao, fra, a dopo, ciao ciao. Ora fondo scala. Attenzione Giovaria, ci si? Frank. Giovaria. Attenzione Giovaria. Avanti, chi è? Tonino, dimmi come sto arrivando. Abbiamo spostato l'antenna. Tony, buongiorno. Fa un passaggio più lungo. Ok, buongiorno anche a te Giovanni. 1, 2, 3, prova di modulazione, guarda un po' come si è migliorato da prima, dai. La radio è perfetta, E il segnale a fondo scala qua, Va bene Tony, va benissimo, ottimo. Ok, ti ringrazio Giovanni. Prima era troppo attaccata la antenna al baracchino. Adesso è sola, soletta, distante. È leggermente più alta. Va bene Tony, va benissimo. Io sto rientrando adesso da stamattina presto, trovami 3 ore in bricco la fila, una cosa incredibile. Non vi so di là, è un bel diente pigliando di roba, cazzo. Oggi appena venere, la sita domani che è sabato domenica, la gente si rammetta all'ultimo minuto andare a fare pizza. Lo so, per entrare fa impresa, ma sì, deve avere una fila per pagare che non fini più. Un casino, gatto, ce ne messi di bene senza abilare quasi niente, gatto. Non si può, era troppo, poi per a mio figliolo devi andare pure a travagliare tu, gatto, che si chiama, ho mollato tutto. Che cosetta l'avevo abilata, ma un resto andiamo domani a rettearla, là. Quando è così. Vabbè, dai, noi stiamo preparando per il caricabatterie, dai Giovanni. Ok, ti ringrazio per il controllo. Buon carica batteria, quando lo farai anche tu, salutami il QRA, alla prossima. Altrettanto, ho ricambiato tutto, Tori, ci sentiamo, dai, eventualmente a stasera, ciao ciao. Ok Giovanni, ciao ciao.